later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli è sempre mezzanotte, K e Drago sono in compagnia di un pollo inglese che forse li può aiutare a liberare il tucano triste, vittima di una clamorosa svista giudiziaria. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. E il pollo inglese se ne sta andando, capo. Sì, vabbè, però, scusa, senti il povero tucano, Drago. Gli amici non fa schifo. È un prigioniero senza colpe, mi stringe il cuore. Ma io. Sì, ma adesso chi se ne frega del tucano? Ma come? E il pollo inglese ha detto di seguirlo. Pollo inglese! Pollo inglese, aspetta! Dove stai andando, pollo? Attenti a dove mettete i piedi. È tutto pieno di cacca di gallina. Beh. E di tucano. Ma non è importante. Non è importante. Dipende se uno ha i sandali. Comunque, scusa, pollo inglese, noi ti veniamo dietro, però tu ci devi dire dove stai andando, sennò non vale, eh? Non è importante dove stiamo andando. Io sono importante. Kappa, ma dove ci sta portando? Ma che ne so, a sto punto stai zitto, seguiamolo e... Sì, stai zitto e seguiamolo. Sai chi è stato l'ultimo che ha detto così? Chi? Mussolini a un collaboratore che gli sconsigliava di allearsi con Hitler. Hitler ha detto a Mussolini: non preoccuparti, vieni con me, vinciamo la guerra, noi ci teniamo tutto e a voi restano la Libia e la Abissinia. E sai com'è finito, no? A testa in giù davanti al Lupin di Piazzale Loreto. No, ma Drago, non c'era mica ancora Lupin nel 45 in Piazzale Loreto. Cosa state dicendo voi due? Niente. Mussolini, Hitler. Le solite cose. Ancora un pezzetto di strada e poi ci siamo. Ma dove siamo esattamente? Non è importante. Seguitemi senza fare storie. Storie. A voi interessa il tucano? Scusa, Apollo, non è che per caso sei sordo? O sei solo tardo? Non è importante se sono tardo. Ah, no, ecco. L'importante è che io sono importante. Guardatevi intorno. Vedete in che condizione viviamo qui? E voi vi preoccupate del tucano? Ma questa è una fabbrica di polli, non è una fabbrica di tucani. Quindi il tucano va rimesso subito in libertà. Io mi sono stufato di dirlo, Kappa, ma insomma... No, Kappa, sembri diventato di colpo pannella. Ti si sono anche seccate le fauci all'istante. No, un pochino sì. Bevi qualcosa. Il tucano ha poca importanza. Sapete chi ha importanza qua dentro? Indovina. Io ho importanza. Ecco, venite. Sì. Aspettate un attimo qua. Drago, sta fermo un attimo. Non muovetevi. Ora vi farò vedere una cosa che vi farà cambiare idea sul tucano triste. Ecco. Ditemi un po'. Che animale è questo? Ma a me sembra un avvoltoio. Ma no? Che avvoltoio, Drago? Guardalo bene, è un tacchino. Sì. No, è un avvoltoio, ma è un tacchino. Ma tu cosa fai? Il giorno del ringraziamento mangi gli avvoltoi? Cari miei, voi avete ancora molto da imparare. Marico, mano, Gianna, trucca a me, fammi le zinne della Hunzinge, fammi la bocca della Basinge, fammi il ciuffetto come Ratzinge, che devo andare a parlare, a ballare, a frigna, a litiga, a scaletta, dentro al pollaio de Marì. Me vedi mamma, sono qui, dentro al pollaio de Marì. Intanto, nell'ufficio dell'amministratore delegato. Allora, cos'è che devo fare? Firmare la dichiarazione? Cosa faccio? La leggo prima? Vabbè, la leggo prima. Il sottoscritto, in qualità di amministratore delegato della fabbrica di polli, dichiara quanto segue. Il tucano triste è entrato nella struttura col numero 756-756 in data... vabbè, qui mettiamo una data a caso. Dunque, ricomincio, che se no non si capisce niente qua. Il tucano triste è entrato nella struttura col numero 756-756 in data... Porca Eva, la data non la so, non la so, non la so. Chi è che deve compilarmi la dichiarazione a matita? Dov'è la stagista? Dunque, il tucano triste, eccetera, eccetera, è stato ascoltato dalla Commissione Giustizia in data... di nuovo? Stagista! Le date me le dovete scrivere a matita, perché io non so dove andare a cercarle, chiaro? Allora, da capo. Il tucano triste è stato ascoltato dalla Commissione Giustizia, ma non è stato possibile raccogliere le sue dichiarazioni, in quanto non si esprime nella nostra lingua. In attesa di ricevere un tucano traduttore ufficiale dal portoghese, è stato disposto lo stato di fermo per il suddetto tucano triste, che sarà trattato esattamente come tutti gli altri ospiti della struttura. In ottemperanza al regolamento interno, il tucano è stato assegnato all'ultimo lotto di condannati a morte, con sentenza da eseguire entro... Stagista! Le date! Le date, a matita, le date! Quando lo ammazziamo, sto tucano? La fabbrica di polli. Questo animale, cari K e Drago, era un avvoltoio. Vedi che era un avvoltoio? Cioè, è un avvoltoio. Non è stato condannato a morte. L'hanno tenuto in attesa di giudizio per tanti anni. E adesso è così. Si sta polizzando. Ma fa schifo, è terribile. Sì, ma non è importante. Beh, insomma, io sono importante. Ma anche tu fai un po' schifo, però. La polizzazione è un fenomeno inevitabile e irreversibile, ma non importante, non tanto. Non tanto. Se avessero ucciso questo avvoltoio quando era l'ora, li avrebbero evitato tante sofferenze. C'è tempo per vivere e tempo per morire. Lo dice anche la Bibbia. Sì, vabbè, adesso abbiamo anche il pollo Ecclesiaste, eh? Ma scusa, perché questo avvoltoio, che tra l'altro mi sembra alquanto rincretinito, cioè, perché non l'avete liberato, semplicemente? Entrare qua dentro è facilissimo, uscirne è un altro discorso. Quindi, per il tucano, è inutile battersi. È destinato a diventare un pollo, come tu. Senti, K, questo discorso non mi piace. E non mi piace nemmeno questo avvoltoio in metamorfosi. Quindi credo che faremmo meglio cercare il modo di tornare alla mia macchina. Ma che macchina, Drago? Allora, ormai la stradale l'avrà portata via, figurati. No, no. Rassegnati, ormai dovrai pagare multa, deposito, sbattimento dei poliziotti. La macchina non è importante. Lo dici tu, eh. Ci sono cose più importanti della macchina. Ad esempio, io. Vabbè, sì, senti, ma l'avvoltoio è finito qua come il tucano? Cioè, per un errore? Diceva così. Ma dicono tutti così. Non dovete credere a nessuno qui nella Chicken Factory. Non dobbiamo credere a nessuno qui dentro. Vabbè, allora perché dovremmo credere a te, per esempio? Infatti, chi sei tu? Perché io sono importante. Vabbè, ma una volta che l'avvoltoio sarà completamente pollizzato, che cosa succede? Niente, sarà un pollo. Senza nostalgia per la vita da avvoltoio. Ok, hai capito. Sapete, once I was a journalist. Una volta io ero un giornalista. Come una volta ero un giornalista? Un rapace, volavo nel cielo. Ma cosa dice? E mi nutrivo di roditori. Adesso sono un pollo. Un pollo importante, ma un pollo. Drago, hai ragione. Andiamocene via di qua, va? Dai, andiamo. You're scared of your future, aren't you? Yeah, so would I be. Yes, life is a chicken, not much fun. Yes, che cosa succederà adesso? Che cosa sono le strane profezie del pollo inglese? Quale sarà il destino del tucano triste? C'è solo un modo per saperlo. Aspettare fino a domani a mezzanotte su Radio 3 per un nuovo pollizzante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Good night, ladies and gentlemen, good night. Bar Lumen.